2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, il nostro indirizzo di posta elettronica è il titolo della nostra trasmissione @radio24.it, quindi scritto in cifra 2024 @radio24.it. Questa settimana ha chiuso definitivamente la sede di Twitter in Italia, uno dei segnali di ritiro di questa azienda da molti mercati, che fa parte della ristrutturazione decisa qualche mese fa, annunciata qualche mese fa. Seguiamo settimana dopo settimana quello che sta succedendo in Twitter, visto che alcuni ritengono che sia imminente l'acquisto da parte di un compratore, di un acquirente, ma nulla accade. Per il momento c'è questa ritirata che questa settimana ha riguardato definitivamente anche la sede di Twitter in Italia. Stiamo parlando di meno di 20 persone assunte e un peso sul fatturato veramente poco significativo. Comunque è un segnale e forse altre sedi europee seguiranno. Alcune notizie in breve della settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da un paio di notizie che riguardano il mondo dei satelliti, dello spazio. Allora, giovedì il lanciatore europeo Ariane 5 ha messo in orbita per la prima volta in un colpo solo 4 satelliti del sistema GPS europeo Galileo. Cioè, non è la prima volta che mette in orbita dei satelliti Galileo, ma è la prima volta che ne mette 4 assieme. È stato un risultato molto, molto importante e molto interessante. La costellazione ha raggiunto ora 18 satelliti, sarà completa quando ce ne saranno 24 operativi più 6 di scorta, il che dovrebbe avvenire nei prossimi 3 anni. I nomi che sono stati dati ai satelliti, lo ricordiamo, sono di bambini europei che hanno vinto un concorso della Commissione europea. Questi 4 si chiamano Antonianna, è un nome di una bambina italiana, Lisa, ungherese, Kimberley di Malta e Tichmen, che è olandese. Scusate la pronuncia olandese che non è proprio perfetta. Altra notizia che riguarda il mondo dei satelliti riguarda SpaceX, che ha chiesto l'autorizzazione negli Stati Uniti per lanciare una rete di 4.425 satelliti per fornire connettività internet in tutto il mondo, un'operazione che richiederà investimenti per 10 miliardi di dollari. Non è il primo progetto del genere, anzi c'è ad esempio OneWeb che ha firmato un contratto con Arianespace per 1 miliardo di dollari e ha già affidato ad Airbus Space and Defense la costruzione di 648 satelliti. Altro progetto è quello già operativo di O3B, Other 3 Billion, che ha già in orbita 12 satelliti. Fiat ha scelto Amazon per vendere online la Panda e la 500 in alcuni allestimenti predefiniti, nel senso che uno non ha il configuratore, può scegliere, può farsi la macchina, ci sono già macchine che sono già disponibili in rete che si possono acquistare. L'auto si acquista online ma poi si ritira in concessionaria perché, secondo un'indagine Fiat Amazon, il 50% degli italiani è interessato a comprare un'auto online ma il 97% la vuole ritirare in concessionaria. La vendita di auto nuove online è stata inaugurata in Italia lo scorso anno da Toyota, ma con una serie speciale e limitata, e quindi potremmo dire che questo è il primo risultato di un accordo tra Fiat e Amazon, comunque la prima volta che Amazon vende automobili online e lo ha inaugurato con Fiat Chrysler. Ci sono altri produttori che vendono auto direttamente dai propri siti internet e va anche detto che il commercio di auto online è molto sviluppato per le auto usate, ma per il nuovo stiamo parlando di novità. Un'ultima notizia riguarda Panasonic che ha lanciato, anzi due notizie, ultime due notizie, la prima riguarda Panasonic che ha lanciato in Giappone un megafono, sì avete capito bene, un megafono in grado di tradurre dal giapponese in inglese, cinese e coreano una serie di parole e di frasi. Per il momento il software riconosce 300 frasi ed espressioni più comunemente utilizzate per fornire informazioni o richiamare all'ordine in luoghi pubblici come stazioni, aeroporti, destinazioni turistiche, ed è pensato per il settore turistico. Il Giappone si sta preparando per le Olimpiadi del 2020 e si attendono milioni di turisti, e questo fa parte anche di una maggiore offerta per i turisti. Un'ultima notizia riguarda Samsung che ha fatto un'operazione molto interessante, ha comprato per 8 miliardi di dollari l'americana Harman, entrando nel settore della tecnologia per auto. Però Harman è un colosso americano che ha parecchi marchi nel settore audio dell'intrattenimento, ma anche una divisione dedicata al mondo delle automobili. Samsung aveva già provato ad entrare in questo settore cercando di acquisire Magneti Marelli, ma poi gli sforzi e soprattutto i soldi sono stati dirottati sull'americana Harman. Questo è un settore in forte crescita, visto che stiamo parlando di sistemi di infotainment di bordo per le auto connesse. Dunque, adesso parliamo di Internet of Things, la Internet degli oggetti. Allora, ci sono tre o quattro elementi alla base di questa rivoluzione: la connettività sempre più diffusa, e questa sera parleremo ampiamente di connettività, sensori sempre più piccoli, capaci di raccogliere tanti dati, capacità di elaborare questi dati, quindi processori sempre più potenti, tutto ciò a costi sempre più bassi e quindi la possibilità di mettere sensoristica diffusa un po' ovunque. Basta utilizzare la fantasia e la Internet degli oggetti è un po' la base di Industria 4.0. Poi bisogna sommare la capacità di raccogliere dati, di elaborare i dati, e di tante di queste cose parleremo in questa puntata di 2024, per poi arrivare a aggiungere anche l'elemento dell'intelligenza artificiale, della capacità delle macchine di imparare e di fare cose che oggi fanno ad esempio gli uomini. Ma iniziamo per gradi, parliamo di Internet degli oggetti. Dicevo, la connettività è fondamentale, abbiamo parlato per mesi dei progetti legati alla fibra ottica. Naturalmente il cavo, cioè le connessioni via cavo, sono fondamentali, importanti, ma ci sono tutta una serie di ambiti dove non è molto agevole portare il cavo, oppure antieconomico portare il cavo, oppure pensate che nei prossimi anni ci saranno, in uno spazio molto limitato all'interno degli edifici o anche all'interno di una città, tantissimi sensori, e parliamo di migliaia se non di milioni di sensori, e se guardiamo ad una città saranno miliardi di sensori. Beh, non è che possiamo portare una fibra ottica per ogni sensore. Quindi la soluzione è connettere, collegare questi sensori tramite soluzioni wireless, radiofrequenze. In alcuni ambiti si utilizzerà il wifi, si utilizzeranno altre tecnologie, anzi stanno nascendo, ne abbiamo parlato 2024, delle reti su particolari frequenze dedicate proprio alla Internet degli oggetti. Si sfruttano varie frequenze che esistono a disposizione. Però si possono utilizzare a maggior ragione le reti di telefonia mobile. Esistono già, sono molto capaci, anzi diventeranno sempre più capaci, perché dal 4G attuale di oggi si passerà al 5G, quindi ci sarà sempre più banda, sempre più pervasività di queste reti. Ma ci sono alcune tecnologie molto interessanti che proprio stanno nascendo e stanno arrivando sul mercato, pensate proprio per la Internet degli oggetti. Allora, questa settimana TIM ha presentato, ha lanciato un nuovo laboratorio, un nuovo concetto del laboratorio storico che TIM e Telecom ha a Torino, chiamato Open Lab, dedicato a aziende, partner, ricercatori che vogliono con la fantasia e con la tecnologia cercare nuove strade per inventarsi cose da fare grazie alla Internet degli oggetti, con una nuova tecnologia che sfrutta la rete 4G, ma, cosa quasi paradossale, va in banda stretta. Noi parliamo tanto, abbiamo parlato tantissimo di banda larga, e oggi invece c'è anche questa versione proprio dedicata alla Internet degli oggetti che si chiama Narrow Band, banda stretta. Perché? Perché su queste reti alcune cose necessitano di banda larga, quindi io che telefono, oppure che faccio una videochiamata, oppure guardo un video, navigo in internet ad esempio, ma la sensoristica diffusa sul territorio, beh, si può accontentare di pochissima banda, e per lanciare in rete pochi dati in maniera continuativa. Di questo ho parlato, ed è più bravo di me a spiegarvelo, ho parlato con l'ingegnere Giovanni Ferigo, che è il direttore della tecnologia di TIM. Questo laboratorio serve a rendere disponibile a tutti gli attori di questo settore una piattaforma che noi riteniamo un acceleratore. Di cosa? È un acceleratore che tiene conto che ormai la comunicazione non avviene più tra persona e persona o tra oggetto e oggetto, ma tra persone e ambiente. E quindi parliamo di contatori elettrici, contatori del gas, lampioni, parliamo di salute, parliamo di connected cars con la e-call, emergency call, quindi parliamo di tutti questi milioni di oggetti che interagiranno nell'ambiente e con noi, che ci daranno una, direi, montagna, lasciatemi dire così, di informazione. Open Lab cosa fa? Si mette a disposizione di tutto questo ecosistema per non solo attraverso le reti mobili veicolare diciamo i segnali, ma anche per elaborare questi dati in ottica Big Data Analytics, per rendere disponibile agli operatori degli smart services tutto i profili di servizio e nuovi servizi che vanno incontro a questa esigenza che sta montando sempre di più giorno dopo giorno. Lei ha già fatto alcuni esempi, ma ci fa degli esempi di soluzioni, idee che potrebbero nascere o che potrebbero trasformarsi grazie a queste tecnologie? Allora, adesso la tecnologia che stiamo utilizzando è quella chiamata del 4,5G, che è un'evoluzione dell'LTE, e in prospettiva andremo verso il 5G. Allora, adesso con la standardizzazione della uso una parola tecnica, lasciatemelo fare, Narrowband IoT, usiamo la banda licenziata della rete LTE per connettere gli oggetti. Le connessioni di cui posso fare qualche esempio sono tantissimo, sono le connected cars, sono le compagnie di assicurazione che possono così monitorare il comportamento di ogni singolo automobilista per profilare il prezzo dell'assicurazione, sono la gestione dei veicoli, c'è la gestione delle merci, quindi sta venendo molto sul mercato avanti la gestione dei contatori elettrici e del gas, che consentiranno quindi una gestione ottimale e da remoto di tutte le informazioni. Tenete conto che i sensori che utilizziamo sono sensori a bassissimo consumo, il cui standard prevede che una batteria duri almeno 10 anni, e quindi le economie di scala per gestire tutte queste informazioni si capiscono da sé. Lei ha usato una parola tecnica ma molto bella e interessante, perché in un mondo dove si parla solo di banda larga, di banda ultra larga, il termine che voi avete utilizzato all'inaugurazione di questo laboratorio, di questo team di esperti, è narrowband, banda stretta, che sembra strano, no? Perché questo tipo di applicazioni non necessitano di banda larga, parliamo di 200-250 bit al secondo, e quindi lo standard che è stato finalmente dal 3GPP rilasciato è USA 180-200 kHz nella banda degli 800, quindi pochissima banda che riesce a gestire tantissime informazioni. Quindi siamo andati, diciamo, in controtendenza rispetto a banda larghe larghissime che servono per altre applicazioni. Per questo tipo di applicazioni basta questa banda. Chiaramente il 5G, che è anche cosiddetta, che sta arrivando, che è anche cosiddetta la 1 gigabit society, porterà delle applicazioni che necessiteranno di bande molto larghe. Non so, faccio l'esempio di un esempio tipico: è una persona che non sta bene, quindi tramite sensori potrà mandare automaticamente la richiesta di un'autobulanza con già gli esami preconfezionati, prestabiliti, e quindi arriva, insomma, nel pronto soccorso con già tutto pronto per eventuali interventi. E quindi man mano che ci saranno oggetti da connettere, potremo decidere narrowband o banda larga, larghissima, e questo è un po' lo standard che sta arrivando. Sappiate che la standardizzazione del 5G sta finendo nel 2020, abbiamo nella comunità europea l'obbligo di lanciare il 5G in almeno una città dello Stato membro. L'obbligo è per gli operatori o lo Stato che deve mettersi d'accordo con gli operatori? L'obbligo è di ogni membro Stato, però l'operatore è Stato, diciamo, in questo caso quasi sono la stessa cosa. Cioè, devono mettersi d'accordo. Ci mettiamo d'accordo su quale città coprire. Noi ci stiamo pensando. Quindi stiamo parlando di sensori, tantissimi sensori che comunque mandano pochi dati, ma costantemente, sono sempre connessi. Assolutamente sì, adesso è così. Un altro fattore interessante è che la rete dovrà avere molte più antenne e voi già oggi state cominciando a fare una cosa che va in quella direzione. Sì. La tecnologia ci consente, stiamo utilizzando le small cell, che sono delle antenne che diciamo occupano lo spazio di un foglio A4, hanno delle bassissime emissioni, parliamo di sotto dei 5 watt, quindi sono assolutamente rispettosi di tutto quello che è l'ecosistema sanitario. Saranno molte dappertutto. Una delle applicazioni che stiamo provando in questi giorni con molte municipalizzate, se posso fare un esempio, è A2A in quella di Milano, piuttosto che Irent a Torino, piuttosto che ACEA a Roma. Utilizzeremo i lampioni, che sono migliaia e migliaia, per installare queste small cell che consentiranno una connessione continua a questi milioni e milioni di oggetti e ottimizzeranno di fatto anche le reti sugli siti che sono più grandi. Senta, giusto per ricapitolare, per fare capire agli ascoltatori quali sono i benefici maggiori del 5G al di là della banda molto molto molto più larga per le applicazioni che lo richiedono. Allora, i benefici del 5G saranno che avremo, una volta, ripeto, finita la standardizzazione, ci stiamo ancora lavorando, ci sarà la possibilità di avere milioni di oggetti connessi per chilometro quadrato rispetto a qualche decina di migliaia di adesso. Ci sarà una assoluta efficienza energetica, nel senso che sono tutti oggetti che consumano molto poco e consentiranno una serie di applicazioni che renderanno la vita sicuramente più facile. Un altro esempio che ho visto che sta sviluppando la Corea, che da questo punto di vista è abbastanza diciamo innovativa, è la spesa intelligente. C'è un carrello che tramite IoT 5G che va da solo insieme alla signora che fa la spesa e indica quale dei beni che ci sono sugli scaffali mancano in casa, perché anche i beni sugli scaffali sono connessi a Internet IoT, e quindi la spesa è come andare a fare una passeggiata all'interno del supermercato con qualcuno che ci guida, fa la spesa, non ci saranno neanche più le casse, perché quando si passa attraverso i sensori si arriverà a casa automaticamente la spesa. Quindi ecco, questa è un'applicazione, se volete, un po' banale, domestica, ma che rende un po' l'idea di quello. Applicatola alla salute, applicatola a quelle che sono le connected cars, nel senso che tra, non solo, come posso dire, per le distanze e per la sicurezza, però tutta una serie di anche multimedia contents che potranno scambiarsi le automobili, e insomma vi rendete conto che ci si apre un mondo veramente molto molto molto interessante. Adesso parliamo di contatori del gas, ma sempre continuando a parlare di internet degli oggetti, perché uno dei tanti esempi che si possono fare, ma che già è realtà, già sta avvenendo, riguarda proprio i contatori del gas che cominciano ad essere oggetti connessi. Ne ho parlato con Gianfranco De Feo, amministratore delegato della Pietro Fiorentini Cina, la divisione cinese di questa azienda, e responsabile innovazione del gruppo Pietro Fiorentini, che è leader nel mondo nei sistemi di misura e controllo del gas e oggi anche dei cosiddetti smart metering, cioè i contatori del gas intelligenti che sono connessi e possono essere comandati anche da remoto. La Pietro Fiorentini ha partecipato assieme a TIM a una serie di progetti di sperimentazioni proprio per utilizzare la tecnologia di cui abbiamo parlato, narrow band, cioè questa capacità che con una banda molto stretta, con pochi dati, riesce a connettere oggetti. La cosa interessante è che si possono connettere oggetti che sono addirittura nascosti in tombini che sono dentro a scatole di metallo, perché questa parte del 4G riesce a penetrare molto bene con pochissimi dati, magari in un luogo dove non si riesce a fare una telefonata, e invece questi sensori, o magari questo è un contatore del gas, riesce a fornire informazioni e quindi è connesso alla rete. Gianfranco De Feo. Bene, noi ci occupiamo di controllo della pressione, principalmente il core business dell'azienda storicamente è il controllo della pressione lungo la filiera del gas, quindi lungo dalle tubazioni ad alta pressione che partono da lontano al trattamento del gas ai luoghi di produzione fino alla nostra porta di casa, quindi di fatto il regolatore di pressione di fronte alla nostra porta di casa, piuttosto che il contatore, quasi facilmente è un Pietro Fiorentini. Sicuramente quel gas è passato attraverso la nostra apparecchiatura. Voi una decina di anni fa avete cominciato a capire che il mondo sarebbe diventato smart anche nel gas. Cosa è successo 10 anni fa? Diciamo che una decina di anni fa noi abbiamo cercato di guardare un po' più lontano del nostro business tradizionale e abbiamo lanciato un progetto che si chiama Smart Gas Grids, dove vedevamo la comunicazione come elemento che cambiava il mondo del gas, quindi mettere in connessione tutti gli elementi che ci sono lungo la filiera del gas e fare in modo che parlino fra di loro. Era un progetto da visionari a quel tempo. Il contatore domestico era uno dei punti nodali, quello che per primo doveva fornire i dati al sistema, e quindi da lì abbiamo investito, abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo cominciato a credere nel discorso di Smart Gas Grid, quindi arrivando un po' prima degli altri, magari anche in qualche momento un po' troppo prima degli altri, quindi con qualche flop commerciale, perché proprio eravamo arrivati troppo presto. Però oggi raccogliete i risultati, siete leader nel mondo in questa tecnologia. Beh, diciamo, nello smart metering sicuramente siamo leader, quantomeno europei, consolidati per numeri. A livello di apparecchiature del gas siamo una delle aziende leader, comunque sicuramente la prima che porta avanti questo tipo di approccio. Noi siamo all'interno dei laboratori di TIM, dove TIM sta presentando la piattaforma per la Internet of Things, e anche voi presentate il risultato di questi 10 anni di ricerche. Quando parliamo di smart metering parliamo di contatore intelligente. Che cos'è però? Perché fa un po' di cose questa cosa. Beh, il contatore intelligente oggi è visto solo come quell'elemento che invia la mia bolletta, facilita o va a sostituire il lavoro del letturista. Attendere è tutt'altra cosa, è quello che mi permetterà, io utente, di sapere ogni giorno quanto gas ho consumato, mi permetterà di cambiare il mio comportamento nei confronti del consumo di energia, e qui sottolineo energia perché quando noi parliamo di gas è una delle fonti di energia, ma dobbiamo vedere la fine del dualismo energia elettrica e tendere a vedere un mondo singolo. Il contatore smart ci permetterà di fare questo, ma soprattutto ci porterà ad avere comportamenti virtuosi per quanto riguarda il consumo. Cioè, lei ha usato il verbo al futuro, in realtà molte di queste cose si potrebbero già fare oggi. Bah, diciamo che se volessimo usare uno slogan preso dalla pubblicità banale, potremmo dire che il futuro è oggi. Tutte queste cose noi le vediamo, cioè noi partecipando ai gruppi di lavoro vediamo già impianti pilota, sperimentazioni, dove già tutto questo è reale, tangibile, per cui l'accelerazione noi prevediamo sia estremamente veloce. Certo. Senta, come comunica questo contatore intelligente che ha una sorta di piccolo computer a bordo e comunica con la rete? Solo la rete mobile, quindi solo wireless, o esistono soluzioni anche con fibra ottica o altri sistemi? Beh, allora, smart, se vogliamo essere smart moderni, è wireless, per definizione. I sistemi di comunicazione sono i più diversi nei paesi del mondo, se ci fermiamo all'Italia c'è un sistema radio che funziona su frequenze 169 MHz, oppure con i sistemi machine-machine GPRS. 2 anni fa noi abbiamo sentito parlare appunto in Cina, dove io opero, di questa nuova tecnologia che si chiamava Cellular IoT, quella che oggi è NB-IoT, che è al centro dei laboratori inaugurati oggi qua in TIM. Ci abbiamo creduto, reputiamo che questa sia una scelta vincente per il futuro, abbiamo cominciato a investire pesantemente in ecosistema con player molto più grandi di noi, perché lì ci siamo trovati a lavorare con Huawei piuttosto che i produttori di moduli, e oggi siamo soddisfatti della nostra scelta, ci crediamo molto di più. Cioè, che tipo di informazioni fornisce alla rete il contatore? raccontatore, beh, oltre alla lettura che è il suo base, c'è il profilo dei consumi, gestisce la tariffa, perché anche sul gas andremo verso tariffe multiorarie, quindi di fatto vedremo i venditori rendersi più attivi per quanto riguarda le fasce di tariffa, di vendita del gas, quindi in funzione dell'orario, quindi caricare le tariffe all'interno del contatore, gestione della valvola per questioni di prevenire o gestione di prepagamento, perché noi abbiamo ancora, parlava lei prima del futuro, un futuro che noi vediamo abbastanza prossimo è quello del prepagamento, nel senso che io vado a comprare il gas dovunque sia, questo gas lo acquisto virtualmente, lo metto sul mio telefonino, borsellino elettronico, poi lo porto vicino al contatore e lo carico. Quindi anche via wireless si può aprire e chiudere la valvola del gas? Assolutamente sì, per tutto quel tipo di operazioni o di funzionalità che il distributore gas piuttosto che il venditore reputano opportuni nei confronti dell'utente. Quindi il tema della sicurezza è fondamentale, perché se mi hackerano non uno ma un milione di contatori è un problema. Diciamo che i contatori hanno al loro interno un sistema di crittografia per proprio a prevenire hackeraggi su vasta scala. Oggi parliamo di crittografia 128 bit, che sono praticamente al massimo della sicurezza, cioè non siamo lontani da sistemi che nel quotidiano vediamo nei bancomat nostri. Ti faccio un'ultima domanda sulle batterie, visto che appunto sono wireless, non sono connessi ad una rete nemmeno elettrica, qui dicono che le batterie durano 10 o più anni addirittura. Prima di tutto è vero, secondo, poi ci vorranno persone che ad un certo punto della vita dei contatori andranno a cambiare tutte le batterie di questi contatori. Ahimè l'energia, sì, ahimè è uno dei punti dolenti nel fare lo smart metering, perché il gas non possiamo sfruttarlo immediatamente, quindi ci dobbiamo fidare alle batterie. Le batterie sono un punto significativo, un punto caratteristico. Oggi le nuove tecnologie, e ritorniamo un po' nel BIoT di cui stavamo parlando prima, ci permettono di coprire la vita metrologica del contatore. I contatori oggi per decreto legge hanno una vita metrologica di 15 anni, quindi oggi è possibile avere il contatore con la sua batteria che hanno esattamente la stessa vita. Fra 15 anni però dobbiamo mandare un po' di persone in giro a cambiare le batterie. Fra 15 anni dobbiamo mandare gli operatori a cambiare i contatori. Ma a quel punto cambiamo anche le batterie, ovviamente. E lì, dice, ci saranno ancora i contatori, punto di domanda. E questa è la sfida per noi costruttori. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. Tra poco parleremo di intelligenza artificiale, di macchine capaci di imparare e anche di supercomputing. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Vi ricordo che potete scaricare la nostra versione podcast, trovate tutte le nostre interviste in versione integrale www.radio24.it. Oppure un'altra soluzione molto comoda è quella di utilizzare una applicazione sul vostro smartphone per il podcast. Se usate Android, andate sull'App Store di Android, quindi su Play Store, e cercando con la parola podcast potete scaricare una delle tantissime app per la gestione del podcast. Ma se usate iOS, quindi iPhone, basta ed è perfetta l'applicazione podcast di Apple, e con quella fate tutto. Abbonatevi e fate pubblicità ai vostri amici, parenti, colleghi di lavoro a 2024 e al podcast. Adesso ci occupiamo di supercomputer e di intelligenza artificiale. Edmondo Orlotti è responsabile dello sviluppo del business in ambito di supercalcolo in HPE Italia. Benvenuto a 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ricordiamo che HPE è Hewlett Packard Enterprise, una delle due anime di quella che i comuni mortali conoscono come HP. Giusto? Esattamente, da un anno ormai ci siamo separati in due aziende diverse. Dunque, Supercomputing 2016, la manifestazione più importante che si occupa di supercomputer, e alcuni ascoltatori potrebbero pensare, adesso parlano di cose difficilissime, sicuramente Voi avete visto e seguito conferenze molto complesse, molto complicate, però poi parleremo di molti dei temi di cui ci occupiamo a 2024, perché tu ti occupi di fatto, occupandoti di supercalcolo, di big data, analisi dei dati, di Internet of Things, di cloud computing, di cose del genere, giusto? Esatto. Esatto. E le metti tutti assieme. Cerchiamo di metterle tutte assieme e di farle funzionare al meglio a seconda dei casi. Dunque, una prima cosa che è stata annunciata a Supercomputing, che è una classifica abbastanza nota, è stata aggiornata la classifica dei computer più potenti al mondo. La situazione è sempre più o meno analoga, cioè Stati Uniti contro Cina, Cina contro Stati Uniti. Sì, esattamente. È stata pubblicata, come dicevi, la nuova Top 500, una classifica che viene pubblicata ogni 6 mesi. Nell'edizione di novembre di adesso vediamo ancora il predominio di Cina e Stati Uniti, diciamo, in buona solitudine, perché ciascuno di loro ha 170 e passa sistemi in questa classifica. Il terzo, che è la Germania, arriva con 32 sistemi, quindi c'è un distacco molto netto tra Cina e Stati Uniti. Questi sono i computer pubblici, giusto? Quelli segreti, cioè tipo i militari, non si sa che computer abbiano. Sì, la Top 500, questa classifica, mette in lista soltanto i computer che vengono dichiarati, i supercalcolatori che vengono dichiarati. Ovviamente ci sono sistemi che non sono pubblici, come citato possono essere quelli della difesa, dell'intelligence, oppure anche semplicemente di aziende che non vogliono far conoscere quella che è la potenza di calcolo che hanno a disposizione. Perché la potenza di calcolo, ed è qui la vera cosa importante quando si parla di supercomputer, la potenza di calcolo fa parte della strategia, cioè è strategica per un'azienda e per una nazione. Assolutamente, la potenza di calcolo è legata di fatto alla simulazione che io posso eseguire su questi supercalcolatori. Simulazione significa, ad esempio, semplicemente la meteorologia. Quando io voglio fare le previsioni del tempo, io voglio avere delle previsioni del tempo accurate, quindi ho bisogno di sistemi potenti che siano in grado di calcolare quello che può essere il tempo tra un'ora o tra una settimana. Certo, però oggi il supercalcolo serve per tutto, per fare progettazione, cioè tutto quello che noi compriamo è progettato grazie al supercomputer. Assolutamente, la simulazione è diventata imprescindibile oggi per sviluppare qualsiasi tipo di prodotto, dalle cuffie che stiamo indossando alle automobili che guidiamo. È molto meglio simulare gli incidenti di un'automobile all'interno di un supercalcolatore piuttosto che effettuarli a scantare la macchina. Esatto, non solo per una questione di costi, ma anche perché grazie alla simulazione io posso eseguire un maggior numero di casi, quindi posso simulare più situazioni che sarebbe molto difficile simulare se eseguire in un ambiente reale. Certo, posso far schiantare la macchina centinaia di volte. Esattamente. Posso far cadere aeroplani, un po' come nei videogiochi. In modo un po' più sofisticato. Sì, ovviamente. Diciamo un po' più sofisticato, ma sì. Certo, i computer, questi supercomputer, stanno diventando, immagino, sempre più potenti, ma con un trend sempre più rallentato da un certo modo. Sì, certo, questo è vero, questo è vero. L'evoluzione tecnologica che comunque c'è rallenta, nel senso che non siamo più in grado da un anno all'altro di passare al doppio della potenza. Oggi siamo nell'ordine, per usare un'unità di misura tipica di questo ambiente che è il petaflop, le operazioni che si riescono a fare, oggi siamo nell'ordine al massimo dei 100 petaflop, e con molti sforzi si pensa di raggiungere i 1000 petaflop tra 5-7 anni. Però questo richiederà molti sforzi, molti investimenti, e questi sistemi, che probabilmente ce ne saranno pochi al mondo, consumeranno anche molta energia. Stiamo parlando di 20 o 30 megawatt, che sono quello che oggi utilizziamo per dare energia, dare elettricità a una cittadina di 150.000-200.000 abitanti. Quindi questi supercomputer devono essere costruiti vicino a una centrale elettrica o viceversa, cioè la centrale elettrica vicino al supercomputer. Assolutamente. Certo. E quando noi utilizziamo i sistemi con la nostra app sullo smartphone, con il nostro computer, i sistemi comuni, dal motore di ricerca ai social network, dietro ci sono supercomputer di fatto? Molto spesso sì, molto spesso ci sono supercalcolatori che sono in grado di analizzare per noi tutti i dati che hanno immagazzinato, e questo tipo di analisi richiede una potenza di calcolo praticamente infinita, che cresce costantemente. Certo, e tra l'altro oggi potenza di calcolo che noi non riusciamo a immaginare. Questo è il problema. Cioè, ormai queste macchine sono così grosse, complesse, che facciamo fatica ad immaginare. I temi, cioè, ci sono stati ovviamente tanti temi a questa conferenza supercomputing che si è svolta a Salt Lake City, giusto? Esatto, negli Stati Uniti. Dunque, intelligenza artificiale e una cosa che molti ascoltatori avranno sentito citare anche 2024, machine learning, cioè macchine che imparano. Sì, questo è il trend, diciamo, del momento, ma che è destinato a durare, perché il machine learning è la tecnologia con la quale si riesce a interpretare correttamente tutti i big data su cui oggi lavoriamo. Oggi siamo in una situazione per cui vengono prodotte una quantità, appunto come dicevi, infinita di dati, una quantità talmente elevata di dati che è difficile per noi poi interpretarli e renderli utili effettivamente. Certo. Allora il machine learning interviene con introducendo l'intelligenza artificiale, cioè introducendo la capacità delle macchine di imparare, analizzando questi dati, di imparare ad effettuare analisi proprie che consentono quindi di rendere, di mettere a frutto tutti questi dati che abbiamo. Ok, possiamo fare degli esempi di come possono essere applicate queste tecnologie? Di esempi ce ne sono molti. Uno che a me piace molto utilizzare è quello del settore medicale, della medicina in generale. Pensiamo semplicemente alla diagnostica per immagini, alle TAC o alle risonanze magnetiche. Quello che si fa già è passare tutte queste immagini nei sistemi di machine learning, fare training, e queste macchine diventano in grado di assistere il medico nelle diagnosi, nell'analisi di queste immagini, per ridurre la possibilità di errori in fase di diagnosi del medico umano. Quando quando tu dici la macchina impara, faccio una domanda, ma la macchina, una volta che ha imparato una volta, una macchina poi passa questa conoscenza alle altre macchine, non c'è più bisogno che ogni macchina, mentre con gli umani ogni umano deve imparare da solo, oddio, un pochettino di, come dire, l'esperienza degli altri viene trasmessa, però imparare la lingua, uno deve studiare la grammatica, imparare la lingua, le macchine, una volta che una macchina ha imparato, poi questa conoscenza si diffonde su tutti i sistemi, o no? Assolutamente, okay. E questo è esattamente vero, e questo è forse anche l'aspetto che inquieta del machine learning, nel senso che io ho macchine che imparano e che sono in grado di tramandare quello che hanno imparato senza nessuna perdita di informazioni, esatto, alla generazione successiva, che a sua volta sarà in grado di imparare ancora di più, e quindi quello che si prevede è che negli anni queste macchine potrebbero imparare talmente tanto da mettere addirittura in difficoltà noi. Sì, certo. Questo tema si dibatte a supercomputing o si parla solo di tecnologia fregandosene, tra virgolette, di tutti i problemi eventualmente etici che potrebbero accadere? No, supercomputing non si occupa dei problemi, delle implicazioni etiche. È una conferenza tecnica. Sì, assolutamente. Noi facciamo i supercomputer, poi come vengono utilizzati dipende, diciamo, non da noi, ma sì, da chi poi vuole utilizzare queste macchine. Ma in ambito medico, tu dicevi, già oggi accade, ma negli Stati Uniti o in altre parti del mondo? No, in Europa c'è molta attività in quest'ambito. I principali attori di macchinari in ambito medicale sono già in fase abbastanza avanzata, quindi sono tecnologie che vedremo, se non già quest'anno, a seconda dei vari paesi in Europa, comunque nel giro di 2 o 3 anni. Quindi la macchina vede le immagini, capisce di che cosa stiamo parlando, impara a riconoscere un problema, che insomma magari un osso che si è rotto, non è che stiamo parlando solo di cose più gravi e spiacevoli, e imparando riesce a suggerire al medico quella è la diagnosi e quella è la cura. Sì, l'approccio è proprio questo, cioè funziona come un ausilio al medico per evitare falsi negativi o situazioni appunto che possono sfuggire. E nel giro di pochi anni anche i medici potrebbero essere sostituiti. Qualcuno adesso dirà, ah ma no, ma non è vero, invece purtroppo sarà vero. Diciamo almeno per le cose più semplici, infatti. Quantomeno bisognerà porsi il problema di come utilizzare questo tipo di ausili. Altri esempi di come la capacità delle macchine di imparare utilizzando sistemi di intelligenza artificiale può migliorare vari ambiti? Ma siamo qui in radio, pensiamo semplicemente alla nostra voce, a quello che diciamo. I sistemi oggi di riconoscimento vocale, speech recognition, si basano già pesantemente su sistemi di intelligenza artificiale. Sì. Pensiamo semplicemente ai sistemi di riconoscimento vocale che utilizziamo con gli smartphone, questi sistemi di riconoscimento sono già oggi basati su algoritmi di intelligenza artificiale, per cui il mio telefono, man mano che io lo utilizzo nei mesi e parlo col mio telefono, il mio telefono è in grado di imparare a riconoscere meglio la mia voce. Quindi, allora, visto che questo esempio lo hanno fatto altri ospiti e visto che non mi sembra che la percezione popolare dei sistemi di intelligenza artificiale, dei sistemi di assistenza sugli smartphone sia così entusiasta, cioè molti dicono vabbè però non funziona, non capisce mai niente. E allora i problemi sono due o tre. Allora, il primo potrebbe essere che ancora non sono tanto intelligenti e bravi, quindi devono ancora imparare molto. Però un altro problema potrebbe anche essere che la gente, non utilizzandoli, utilizzandoli poco, non permette a loro, a questi sistemi, di imparare. Esattamente, il training, la fase di training negli algoritmi di intelligenza artificiale è fondamentale per poter costruire un sistema che abbia quell'intelligenza che ci serve. Per cui oggi, se ci riferiamo appunto ai casi di tutti i giorni con gli smartphone, il riconoscimento vocale in sé, cioè le parole, vengono riconosciute molto bene. Sì, molto perché bene, questa parte, diciamo, è stata risolta. Sì, sì, io quando guido uso WhatsApp, ma non digito mai nulla. Parlo solo, e però scrivo di fatto, perché il riconoscimento vocale è fantastico. Da qui poi al nostro telefono, che è in grado di capire quelle che sono le nostre esigenze o quello che vogliamo, quello che intendiamo quando diciamo certo, qualcosa, questo richiede una potenza di calcolo che oggi è difficile da ottenere, perché richiede un training specifico sul singolo individuo. Quindi moltiplichiamolo per tutti gli individui e si vede che la potenza di calcolo che è necessaria è enorme. Certo, un conto quando io ad esempio chiedo «sei al sole?», la macchina probabilmente interpreta se sei all'aperto e c'è il sole. Invece a volte io dico sei al sole, cioè al sole 24 ore dove ha sede Radio 24. Esattamente. Quello è una cosa che ancora le macchine non riescono a capire. Lo possono fare se gli facciamo il training corretto. Giusto, okay. Quindi è una questione di risorse di calcolo che ho a disposizione. Poi parliamo di questo aspetto, risorse di calcolo tra smartphone e cloud, eccetera. Altri esempi? Ma prendiamo l'esempio anche qui che è destinato ad avere un impatto enorme, è quello della guida autonoma. La guida autonoma, di cui vediamo dei primi accenni già sul mercato, già su strada, in realtà pensiamo che oggi tutti i principali produttori di automobili o anche di camion e anche di trattori sono impegnati con dei veicoli che raccolgono delle quantità molto elevate di dati, stiamo parlando di centinaia di gigabyte al giorno, questi veicoli stanno raccogliendo informazioni, ogni sera tornano in officina e scaricano queste centinaia di gigabyte di dati a questo cervellone che poi li deve interpretare e costruire quella intelligenza che poi verrà rimessa dentro le automobili che saranno in grado di guidare da sole. Cioè, se ho capito, ammettiamo che nel 2020, tra il 2020 e il 2024, escano sul mercato auto che effettivamente guidano in maniera autonoma, completamente autonoma, anche se esistono già oggi di fatto, perché abbiamo alcuni esempi, però diciamo che non sono pronte al 99%. In questi anni queste macchine, questi team di macchine, queste squadre di queste flotte di automobili stanno imparando. Esattamente, come facciamo noi quando dobbiamo prendere la patente, okay. Facciamo pratica. In 3-4 anni imparano molto bene, probabilmente hanno già imparato, però bisogna metterle in condizioni di prevedere qualsiasi cosa possa succedere. Quando sono pronte, quell'intelligenza che è stata costruita viene messa in ogni automobile e tutte le macchine sono pronte. Esattamente, e poi noi stessi contribuiremo a migliorare l'intelligenza di queste macchine, perché con la nostra macchina che va in giro e quindi macina chilometri, quando faremo gli aggiornamenti del firmware, chiamiamolo così, del software della nostra automobile, noi passeremo i dati in officina e questo consentirà di costruire macchine che saranno in grado di guidare da sole sempre meglio. Quindi abbiamo questa crescita ed evoluzione dell'intelligenza artificiale particolarmente interessante. Certo, io ho parlato con alcuni produttori, alcuni tecnici di case automobilistiche, e molte case automobilistiche sono pronte per raccogliere dati, e in alcuni casi lo stanno già facendo proprio per questo, dati presi dal pilota che va in giro. Alcune case hanno anche delle squadre di piloti che lo fanno di mestiere, vanno in giro, guidano e così raccolgono dati, però se ovviamente tu lo puoi fare già con la gente che gira normalmente, sei avvantaggiato. Sì, c'è anche un aspetto interessante, oltre alla guida autonoma, in realtà quello che si può abilitare sull'automobile è quella che si chiama manutenzione preventiva. Cioè raccogliendo tutti questi dati, quindi anche i sensori sul funzionamento della macchina, sul motore piuttosto che sugli altri apparati, il sistema è in grado di imparare quando sta per verificarsi un guasto, quindi sarà in grado, all'interno dell'automobile avremo un messaggio che ci dirà: attenzione, fra qualche chilometro potresti avere questo tipo di problema, qui c'è l'officina con il pezzo di ricambio, ti suggeriamo di fermarti lì e fare la manutenzione. Stai per rimanere a piedi. Esatto. Quindi tu fai la telefonata di: guarda che arrivi in ritardo perché rimango a piedi fra 5 chilometri. Che cosa c'entra l'intelligenza artificiale con l'arte? C'entra. Sono stati fatti degli esempi molto interessanti di applicazioni di intelligenza artificiale al mondo artistico. In particolare c'è una dimostrazione di un sistema che, facendo training su quadri, quindi su immagini... Dipinti, proprio dei quadri di Picasso, di Gabù, eccetera. Diciamo, digerendo tutti questi dipinti di diverse epoche, diversi periodi... stili anche. Esatto, il sistema diventa poi in grado da solo, davanti a un quadro, di riconoscere lo stile del dipinto. Okay. E questo è un aspetto. La cosa che è abbastanza interessante è che poi questi sistemi sono anche in grado di generare nuovi dipinti su nostra richiesta, utilizzando lo stile che vogliamo sia adoperato, e generare nuovi dipinti che non sono degli originali, non sono delle copie. Quindi è in grado di mettere dentro delle forme di creatività. Cioè, con lo stile di Picasso ti faccio un quadro nuovo. Esatto. Quindi voglio vedere i critici d'arte riconoscere qual è il vero Picasso da quello che ha fatto il quadro, Che ha fatto il computer. Queste sfide stanno cominciando. Ah. Sì. Sì, stesse cose ho sentito che succedono nella musica, in vari ambiti artistici. E questo era il principale, comunque uno dei trend di cui si è parlato: supercomputing, machine learning, intelligenza artificiale. Temi molto affascinanti di cui abbiamo parlato nel 2024. C'è un altro tema bellissimo, molto interessante, che riguarda i big data. Sono anni e anni e anni che parliamo di big data, però questi dati, queste grandi quantità di dati stanno diventando sempre più grandi, sempre più massicce, ma veramente immense, e la gestione di queste grandi quantità di dati diventa sempre più importante. Che cosa si è detto a supercomputing? Qual è il trend verso il quale si sta andando? Questo è un argomento molto caldo anche a supercomputing e in generale nell'ambito del big data, perché l'evoluzione che vedremo nei prossimi anni di tutti questi sistemi di calcolo sarà molto incentrata proprio sulle tecnologie di memoria, quindi su come noi riusciamo ad accedere ai dati. In particolare oggi siamo abituati ad avere memorie di tipo diverso, quindi la memoria su cui io conservo i miei dati quando il computer è spento, il disco fisso, sì, come lo conosciamo, oppure la memoria veloce a cui il mio processore accede. La RAM, okay, esatto. Sì. Tutto questo è destinato a sparire. Uh-huh. Avremo una sola modalità di memoria che sarà persistente, quindi funzionerà anche quando il computer è spento, e sarà anche veloce come la RAM. Quindi non avremo queste quantità significative di memoria molto veloce, con le stesse caratteristiche sia del disco fisso che della RAM. Questo mi consentirà di portare fuori dal mio computer o sistema più in generale quella che è tutta la memoria. Questo cosa mi consente di fare? Mi consente di tenere il dato sempre nello stesso punto e di accederci in modalità diverse da sistemi di calcolo differenti. Questo è possibile perché sempre supercomputing è stata introdotta anche una tecnologia di comunicazione spinta da un consorzio di cui noi facciamo parte, come HPE, che consente proprio di separare fisicamente il mio processore dalla mia RAM o disco fisso. Sì, ricordiamo che il consorzio si chiama Gen Z, lo diciamo per i più curiosi che poi si possono andare a studiare e vedere, Generation Z, Gen Z. Questo è un protocollo di comunicazione. Se ho ben capito, stiamo andando verso sistemi che avranno solo dei dischi SSD. O forse un'altra tecnologia. Sarà una fusione tra la RAM e i dischi SSD. Bene, comunque il concetto appunto è che i dati rimangono lì, persistenti, li salviamo lì, ma l'accesso sarà molto, molto, molto veloce. E poi, se ho ben capito, avremo questi sistemi per archiviare dati di memoria che non necessariamente devono stare vicini al processore. Esattamente, li possiamo nell'armadio accanto, diciamo, ecco, possiamo allontanarci di qualche decina di metri. Il vantaggio di questo qual è? Il vantaggio di questo è che io posso accedere ai miei dati, che stanno sempre nello stesso posto, sì, con sistemi diversi, che però non devono spostare il dato ognuno per sé. Quindi se io ho tre macchine che devono accedere allo stesso dato, oggi io devo copiare questo dato su ognuna delle tre macchine. Okay. Invece domani non ho più bisogno di farlo, perché il dato sta sempre nello stesso posto e le mie tre macchine possono accedere. È come se io e te avessimo la stessa memoria, ma con due personalità diverse, quindi certo, dicendo cose diverse. Questo mi dà anche il vantaggio che se metto questa grande capacità di memoria in una sala, poi la posso espandere, non dico all'infinito, ma molto facilmente. Invece la memoria che ho nel computer è un po' più difficile. È molto limitata, quindi avremo bisogno di queste grandi memorie veloci. Non posso usare il cloud per fare tutta questa cosa? Beh, il cloud si può utilizzare per alcune cose. In questo caso stiamo parlando di accesso al dato in maniera molto veloce per fare il calcolo. Quindi se io tengo tutto nel cloud, quindi anche il calcolo, allora questo si può fare. Se io ho bisogno di analizzare i miei dati sul mio sistema, questo ovviamente non si può fare. Il cloud può risolvere alcuni problemi, non tutti. Comunque della velocità dell'accesso al dato per fare calcoli è un trend che anche un altro ospite recentemente ci ha fatto, facendo riferimento alla capacità che aumenterà sui nostri smartphone. Quindi il problema, e da questo punto di vista il cloud ha un limite oggettivo, cioè il problema di dover accedere a dati che sono lontani, che quindi hanno comunque una latenza, pur minima che sia, per tutta una serie di applicazioni deve essere superato questo limite. Esatto, cioè la latenza, come tu dicevi, può anche non essere così piccola se ragioniamo su distanze geografiche. Abbiamo i limiti della fisica che ci sono imposti, per cui far viaggiare il dato richiede dei tempi che conosciamo bene, per cui alcune applicazioni non saranno in grado. Pensiamo all'esempio che facevamo prima della guida autonoma. Io non vorrei avere il cervello della mia automobile nel cloud mentre sto guidando. Certo. In caso di un'interruzione o piuttosto di qualsiasi cosa, io voglio che il cervello dell'auto sia lì con tutti i suoi dati in grado di prendere decisioni in maniera immediata. Certo, quindi il calcolo deve essere fatto in locale, i dati devono essere in locale. Esattamente. Poi certo, ci sarà sempre un bilanciamento, un travaso dalle tecnologie cloud alle tecnologie locali, e questo dipenderà molto dall'evoluzione anche tecnologica dei dispositivi sia locali che in cloud. Quindi questa è una nuova frontiera di cui i confini non sono ancora ben definiti. Certo. Scusa, ti faccio un'ultima domanda tornando ai supercomputer. Non avere o comunque avere un numero basso di supercomputer, perché in Italia ne abbiamo molto pochi, giusto? Sì, ne abbiamo pochi. Che contano sulle dita di una mano. Significa questo essere meno competitivi proprio come sistema paese? Allora, tutte le nazioni industrializzate hanno un programma di supercalcolo, anche l'Italia, proprio perché è un aspetto strategico della competitività di un paese. Le simulazioni che oggi si possono fare sui sistemi di supercalcolo sarebbero impossibili da fare nella realtà, per cui per l'evoluzione tecnologica di un paese sono assolutamente strategici. Certo, alcune cose potrebbero essere fatte nella realtà con grandi costi, abbiamo fatto prima l'esempio della macchina che si schianta contro il muro, altre cose proprio non si possono fare. Che ne so, se studiamo un virus o un'epidemia, mica possiamo mettere il virus in giro in una città. Esattamente, oppure se vogliamo studiare gli effetti di un terremoto, certo, gli effetti di un terremoto li possiamo studiare e simulare, sì, non prevedere all'interno di questi sistemi. Io so che uno può affittare calcolo su supercomputer, però immagino che quando cominciamo a parlare di un certo tipo di applicazioni o non lo si può fare o comunque vieni per ultimo nella fila. Ma allora dipende dai contesti, dipende anche dal tipo di simulazione che voglio fare. Alcune simulazioni sono molto complesse, richiedono l'utilizzo esclusivo di un sistema molto grande, per cui non si riesce a fare. Resta anche il fatto che, mentre per esempio in Europa comunque c'è una collaborazione a livello europeo tra i sistemi di supercalcolo, per cui se io sono un ricercatore in Italia posso usare un sistema di supercalcolo che sta in Francia, resta il fatto che per diciamo, la ricerca e l'industria nazionale avere dei propri sistemi fornisce delle garanzie anche dal punto di vista di come poi queste informazioni vengono utilizzate. Bene, io ringrazio Edmondo Orlotti per essere stato con noi. Essendo appena tornato da Salt Lake City, lo lasciamo al suo meritato riposo dopo un viaggio di parecchie ore. A presto e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Questa è la versione podcast del nostro programma con tutte le nostre interviste in versione integrale. Torniamo la prossima settimana. Vi ricordo i momenti in cui andiamo in onda: il venerdì alle 22, domenica alle 13:30, ma ovviamente se utilizzate la versione podcast questo vi importa relativamente, però se potete, magari avete una radio in casa, anzi io vi invito, perché vedo che è una cosa che si sta un po' perdendo, a comprare una bella radio, magari digitale, col DAB, ma adesso molte radio hanno la radio digitale integrata, come regalo di Natale. Non costa tantissimo, è un bel prodotto, la potete mettere in casa. Però prima preoccupatevi di guardare sulla mappa su dab.it se la vostra zona è coperta. Magari chiedete informazioni. Certo, la radio può essere messa in modalità FM, quindi continuare come sempre. Ma parleremo presto di radio digitale, di DAB, la copertura continua. Stiamo accendendo antenne soprattutto nel sud Italia. Negli ultimi mesi abbiamo, Radio 24 fa parte di un consorzio di altre radio, e quindi c'è questa società consortile che opera per accendere frequenze, per trasportare il segnale di tanti editori radiofonici, tra cui anche Radio 24. È tutto per questa puntata. L'indirizzo a cui potete scrivere per mettervi in contatto con me è 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima puntata.